Torniamo in diretta per iniziare con una prima corrispondenza. Siamo in collegamento telefonico con l'avvocato Francesco Romeo. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, diciamo che domani continuano le udienze per quanto riguarda i processi per i fatti accaduti il 14 dicembre scorso. In particolare domani, insomma, c'è l'appuntamento per uno dei ragazzi, anche che ha avuto forse quasi le maggiori restrizioni. Mi posso permettere di correggere? Sì, sì, certo. In realtà domani il processo riguarda cinque persone. Cinque. Allora, raccontaci un po' te che udienza è e di cosa si discuterà domani. Beh, domani tecnicamente è un'udienza, questo noi abbiamo scelto insieme agli altri difensori che con me difendono i ragazzi, io la collega Tartarini per quanto riguarda i tre ragazzi, i tre studenti genovesi, il collega Antonio Stellato che difende insieme a me Mario Migliucci e l'altro collega Pozzelli che difende un'altra persona da conto. Abbiamo scelto un rito speciale, il giudizio abbreviato, con la possibilità di introdurre gli elementi di prova, perché in genere il giudizio abbreviato si basa sugli elementi che già ci sono. Vista la particolarità del processo, si tratta di un giudizio direttissimo di persone arrestate secondo l'accusa mentre commettevano un reato, abbiamo chiesto e ottenuto di fare questo giudizio speciale con la possibilità di portare dei testimoni. Abbiamo già sentito alcuni testimoni, in particolare la scorsa udienza abbiamo sentito il consigliere comunale, che ha dato delle indicazioni su per quanto riguarda eventuali danni partiti dal comune e non ce n'erano. E la prossima, cioè domani, sentiremo il responsabile del gruppo della polizia che ha arrestato questi ragazzi e due testimoni per quanto riguarda la difesa. Si tratta di costruire quello che è accaduto da prima in via Tomacelli all'incrocio con la Goldoni e poi quello che è accaduto subito dopo nella frazione temporale successiva tra Piazza del Popolo e via del Babuino. Ok, quindi ci sarà questa udienza per cinque persone tutto domani mattina. A che ora inizieranno? Dovrebbe iniziare alle 9, però insomma non è mai un orario preciso, insomma, secondo me non inizierà puntuale, se non prima di metà mattinata, ecco. Va bene, e insomma va bene, noi seguiremo ovviamente domani mattina tutto quello che riguarderà il processo anche rispetto alle altre persone. Quanti sono totalmente gli imputati e quali saranno poi le diverse fasi dei processi? Dunque, gli imputati in tutto per questo tipo di procedimenti che si è avviato dopo gli arresti per direttissima, mi sembra che siano all'incirca 24-25 suddivisi in varie sezioni. Una sezione è già arrivata alla conclusione del suo processo, della decima collegiale, in cui mi pare fossero, io non mi sono occupato di questo processo, in cui mi pare fossero coinvolte tre persone, due assolte e una condannata. Ci sono i famosi quattro mesi che sono stati dati la prima condanna, nonché anche tutta la questione del risarcimento al Comune di Roma mi sembra 30.000 euro. Sì, per quel che riguarda il risarcimento al Comune di Roma, siccome i processi si sono svolti di fronte a corti diverse, a tribunali diversi, ci sono situazioni diverse, nel senso che per quanto riguarda i procedimenti di cui mi occupo direttamente io, che sono due, la costituzione di parte civile del Comune in un caso non è stata ammessa e in un altro è stata ammessa limitatamente ai soli danni materiali ipoteticamente subiti, non quindi al danno d'immagine. Nel caso in cui stiamo ora discutendo, quella condanna di cui lei faceva riferimento, si riguarda un risarcimento per danni all'immagine del Comune di Roma. Va bene, quindi vabbè, ricordiamo l'udienza domani mattina, diamo un appuntamento a partire dalle 9:30 sempre a Piazzale Clodio.